istanza di annullamento è un atto che è nella disponibilità di qualsiasi cittadino, qualora ravvisi che un atto emesso da una pubblica amministrazione presenti dei vizi, delle palesi illegittimità che potrebbero poi essere impugnate successivamente in altri passaggi amministrativi successivi e quindi mettendo anche in difficoltà la stessa amministrazione. Quindi è uno strumento che è nell'interesse del cittadino, ma è anche nell'interesse della stessa pubblica amministrazione che poi potrebbe trovarsi successivamente a essere coinvolta in cause successive. Questa istanza di annullamento noi l'abbiamo inviata perché riteniamo che nei passaggi amministrativi di modifica dell'articolo 4 dell'accordo territoriale che è stato stipulato dalle amministrazioni appunto del territorio interessato dall'hub di Altedo ci sia una palese rappresentazione del territorio in contrasto con quella che è la realtà. Praticamente in questi atti viene detto che la relazione paesaggistica individua l'area come un terreno agricolo di ex risaia poi orientato seminativo e attualmente incolto, mentre in realtà la stessa relazione paesaggistica legata agli atti dice che l'area è adibita a coltivazione di piante da seme e quindi evidentemente non è incolta. Quindi in pratica gli amministratori si sono trovati a deliberare, a prendere una decisione su presupposti non diciamo attinenti a quello che era lo stato dell'area. Quindi sì, detta ancora in altre parole, i consiglieri comunali o provinciali che hanno votato questa delibera possono essere stati indotti in inganno, tra virgolette, nel senso che possono aver immaginato che quell'area era incolta quando in realtà incolta non era. Esattamente questo, per carità, diciamo, è nella disponibilità di ciascun amministratore e eventualmente anche, come dire, ritenere opportuno la costruzione di un polo logistico su un'area agricola coltivata. È una idea che io non condivido, però che sta nella disponibilità dell'amministratore. Però in questo caso ci troviamo davanti a una situazione differente, cioè l'amministratore era convinto che quell'area fosse incolta, in pratica non adibita all'attività agricola e quindi magari ha detto ok, visto che l'area è inutilizzata, facciamoci un capannone sopra, ecco. Mentre questa non era la situazione reale. La città metropolitana si riserva 60 giorni per rispondervi? Sì, esattamente, la città metropolitana, e questo ritengo che già come dire sia importante, ha ritenuto opportuno prendersi appunto questi 60 giorni per approfondire la situazione, per verificare appunto nell'interesse pubblico la piena legittimità e correttezza degli atti emanati, in particolare verificando che quello che è stato rappresentato negli atti corrisponda allo stato delle aree interessate e alla loro, diciamo, compatibilità con le pianificazioni e i vincoli paesaggistici attualmente esistenti sull'area. In questi mesi, da dicembre, quando appunto fu approvato questo piano per la costruzione del polo logistico, in molti hanno preso posizione anche non solo a livello provinciale ma anche a livello regionale. Questo può persuadere magari qualcuno a tornare indietro da questo progetto? Ma sì, noi in realtà, cioè, al di là di questo progetto vorremmo fare luce su quello che sta avvenendo su tutta l'area metropolitana di Bologna, sulla quale sono in previsione poli logistici per addirittura quasi 400 ettari di territorio. Quindi noi stiamo parlando della possibilità che una parte enorme del territorio metropolitano attualmente adibito a suolo agricolo venga invece trasformato in aree cementificate, in una regione che già ha cementificato il 10% del territorio regionale, e questo è un problema che assolutamente ci dobbiamo porre per capire qual è lo sviluppo che questa regione pensa per il prossimo futuro, l'idea di sviluppo che questa regione ha per il proprio futuro.